A parte vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Sta per iniziare la zanzara. Attenzione, trasmissione sconsigliata ai deboli di cuore. Le vicende narrate e i personaggi che interverranno potrebbero urtare la vostra sensibilità. L'ascolto di questa trasmissione radiofonica può causare dipendenza patologica. Prima di mettersi all'ascolto, consultare il parere di un medico. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Red Allora ragazzi, prima di andare a Gorino, quello che è, dove sentiremo di nuovo la carne viva delle persone, caro Parenzo, sì, la carne 20, viva. 20 famiglie egoiste che alzano le barricate contro donne e bambini. Se questa per te è carne viva, per me questa certo, è immondizia pura. Certo, comunque buonasera a lei e agli ascoltatori. Lo fai per irritarmi, no? Lo fai per irritarmi come al solito. Stasera sentirai... Stai malissimo, come al solito. Sì. Che è successo? No, guarda, ho fatto l'altro giorno un ottimo vaccino che consiglio a chiunque, vaccino anti-influenzale. L'ho fatto. Ah, sei schiavo delle multinazionali, eh? Sì, multinazionale, vaccino, sì. Ho fatto. Hai fatto il vaccino anti-influenzale. Perché avendo, come tu sai, due bambini piccoli a casa che sono due bombe chimiche che ti portano. Allora ho detto faccio il vaccino come faccio ogni anno. Il vaccino. Dunque, non credi. Il vaccino! Vaccino! Ho fatto il vaccino. Dunque non credi a quelli che dicono che i vaccini portano all'autismo e cose di questo tipo. Ovviamente. Già ho i miei problemi mentali, come dice alle volte qualche ascoltatore. Quindi la situazione non poteva peggiorare, poteva altro che migliorare, no? Come dice qualcuno, allora... questi dementi che chiamano. E quindi niente, cosa ho fatto? Ho fatto il vaccino, però da ieri sto malissimo. Mi sembra un'influenza addosso pazzesca. Una cosa incredibile. Te lo devo dire. Hai vaccino anti-influenzale perché dicono che ti scatena, siccome ti inietti, dicono che comunque ti scatena per poi crearti le difese. Sì, sì. All'inizio stai male. Beh, per un giorno stai male, malissimo. Sto veramente male. Stamattina sono rimasto a casa tutto il giorno, malissimo, a letto. Allora, prima di iniziare la sarabanda su Gorino, ragazzi, dove c'è un signore che è incredibile, il prefetto di Ferrara. Sì. L'imperfetto di Ferrara. Il parfait, io lo chiamerei parfait. Amico mio, l'imperfetto di Ferrara. Io andrei un attimo su questa vicenda dello stipendio dei parlamentari, della riduzione dello stipendio dei parlamentari. Di Battista, sapete, no? Alessandro Di Battista, 5 Stelle, eccetera. Ora, sentite queste parole. Allora, poi uno dice gli ascoltatori della Zanzara, Donato Tavarese, Mauro da Mantova, eccetera, eccetera. Ditemi se non è esattamente la stessa cosa. Ditemi se non è uno dei nostri carissimi ascoltatori, tanti ascoltatori incazzati con il governo Renzi che vorrebbero mettere le barricate, vorrebbero ammazzare il Presidente del Consiglio, vorrebbero metterlo a rogo, vorrebbero fucilarlo, eccetera, eccetera. Ovviamente non parla così. Però io non sto criticando, c'è un modo di fare politica, però è questo, sentite, Renzi sarebbe malmenato se non avesse la scorta, se girasse per libero e bello, diciamo, nel centro di Roma, fuori dai palazzi, perché sta sui coglioni. Senti. E si vede che dovunque noi giriamo, qualcuno può essere d'accordo o meno con 5 Stelle, non abbiamo bisogno di scorte. Dovunque si muove il Presidente del Consiglio gli arrivano pomodori addosso e senza forze di polizia verrebbe malmenato dai cittadini che lo odiano perché è un arrogante, perché sta sui coglioni a tutti, probabilmente anche a se stesso. Sta sui coglioni a tutti questo, sta sui coglioni a tutti, è la verità. Allora, non si capisce per quale motivo, questa è una, apro una piccola parentesi, e non mi ricordo nemmeno in quale trasmissione, credo che fosse all'Aria che tira, sì, ottima trasmissione, ottima, molto buona, sì. Vabbè, molto buono. Tu lo dici. Sì, come tutto quello che viene fatto alla 7 mi pare ottimo. Comunque, dai, dai, non sì, dire così. Senza dai. Alcun disinteresse, no, assolutamente. Certo. Avendoci lavorato e continuandoci a lavorare. Senza nessun disinteresse. Senza, come la Radio 24. Senza conflitti di interesse. Senza conflitti di interesse. Anzi, fammi anche dire, colgo lo che si ottimo questo logo. Sì. Allora, ottima la 7, ovviamente è ottimo. Ottimo questo logo che hanno fatto. Sei veramente nuovo, un ipocrita. Bellissimo, sei con colori. E anche questa idea che si vede il 4 e non si vede la radio. Beh, è una cosa meravigliosa. Allora, ottimo, ottimo la Radio 24, ottima la 7. Ora io andiamo avanti. Io dico solo. Dico dopo, non dire niente. Andiamo avanti ora. Allora, ci penso io. Non so dove Renzi sarebbe malmenato. Sta sui coglioni. Aspetta. Qualcuno l'ha bippato. Ma perché lo dovete bippare? Io non capisco. Adesso dimmi sinceramente la verità. Questo è un politico. Dice una cosa. Sì, no, questo forte. È sbagliato. È sbagliato bipparlo. Lo dico anch'io. Ma sì, certo, dai, questo è ovvio. Ovvio. E dovunque si muove il Presidente del Consiglio gli arrivano pomodori addosso e senza forze di polizia verrebbe malmenato dai cittadini che lo odiano perché è un arrogante, perché sta sui c***i a tutti, probabilmente anche a se stesso. Sta sui c***i a tutti questo. Sta sui c***i a tutti, è la verità. Allora, non ti vuoi fare accusare di essere filorenziana, cara amica, come si chiama, Merlino? Beh, amica mia, non bippare questa roba qua. Dico, che cosa no, ha detto? No, ma forse mica per quello l'ha bippata. Per la parola non coglioni. Che ci per fosse la parola coglioni. Ma che è una parola? Non perché, ma sta sui non coglioni, perché... non è una parolaccia. Non no, è una non parolaccia. Adesso, se guarda, non, è successo se la stessa cosa. È successo la stessa cosa a Mattino 5, che pure ha un altro pubblico, forse più di Casalingue. Mattino 5. Boh. Sì, vabbè, dai, su, non fare il coglione. No, sto scherzando, dai. Mattino 5 con la Panicucci. Ma io vado omnibus in genere. No, so, vabbè, d'accordo, tu. Lascia perdere. No, ma... vabbè, fai tu, dai, non importa. Va, con la Panicucci, la quale sì. A un certo punto col Morelli, no, col professor Morelli. Morelli non sarebbe quello della Lega? Ma no, Morelli, il professore. Ah, là, il medico, il sessuologo. Psicologo, scusa. Sì, non so. Morelli. Ottimo, Morelli. Bravo, Morelli. Vabbè, bravo, sono tutti persona. Bravi per te. Cioè, no, non ce n'è uno che non è bravo. I cittadini di Goro sono dei criminali, ad esempio. Allora, a un certo punto litigano sulla parola coglione. Cioè, ragazzi, adesso non esageriamo. Adesso, alla mattina, pure il pubblico di Mattino 5, che sarà sicuramente un pubblico particolare, credo che possa sopportare la parola coglione. Vabbè, però sono scelte editoriali. La parola coglione è una parola universale. Se uno dice sei un coglione, ma non è che uno deve bippare, perché sei un coglione significa sei un coglione. Vabbè, qui chiuderebbero la trasmissione, visto che quelli sono i punti. Già sono le virgole, i punti e virgola qui, quelle. Sentiamo. Ma da qui a enfatizzare in alcune riprese il lavoro di 9 mesi non ci sta, non è giusto, non è corretto, non va bene. E non va bene che la televisione faccia così, non va bene, perché se io fotografo di tutti questi qui che applaudono come dei coglioni, se io fotografo la loro casa, fammi finire, no, ascolta, non si può applaudire una persona che viene, ci mette la fammi finire, ci mette la faccia e sta parlando. Ma dipende cosa ha fatto la persona, ascolta, però. Cosa ha fatto questa allora, persona? Sinceramente... Hai visto 10 flash? Che cosa ha fatto questa Basta, persona? Raffaele, Hai visto per 10 favore, flash? Raffaele. Se io fotografo la tua vita... Chiaro il concetto? Cato, qual è l'iter adesso? Non è un coglione a tutti, è coglione a chi applaude. Ma basta, Morelli, no, ascolta, basta, Federica, però. Ascolta. Guarda, le parolacce dille a casa tua, non le dici in diretta a Mattino 5. Allora, al di là dei coglioni, Di Battista però ha detto pure altro, ragazzi. Ha detto, questi qua sono gentaglia, dentro il Parlamento gentaglia. Mi sforzerò particolarmente da qui al 4 dicembre, sperando che sia l'ultima volta che avremo il dispiacere di vedere il disgusto questa gentaglia amministrarci e impoverirci. Allora, la questione del frigo, caro Parenzo, la questione dei frigoriferi, beh, quella è stupenda. Gamblatto. Allora, la Raggi, pare che il servizio sarà ripristinato a dicembre, forse, eccetera. Dice che non si sa spiegare perché il servizio è stato sospeso, quello dei rifiuti ingombranti. Amico, è giusto, mia, lei sei il sindaco, però. Appunto, lei farà il sindaco del resto, cioè, quindi è giusto che non lo sappia. Dai. Il servizio degli ingombranti il 18 giugno, prima che ci fosse la votazione del secondo turno, è stato improvvisamente interrotto. Il motivo non lo sa nessuno. Improvvisamente interrotto. Servizio affidato la 29 giugno. Amica mia, non c'è nulla, anche qui non c'è nulla di misterioso. Evidentemente il prefetto prima, il commissario, quello che era, non sono state fatte le gare di appalto. Io ripeto per l'ennesima volta. non c'è bisogno di fare sempre le gare di appalto con le cooperative per gestire queste cose. Avete migliaia di dipendenti all'AMA, gestitelo voi questo cavolo di servizio, mettete la gente apposta per il rifiuto degli ingombranti. E già ieri sera, con la telefonata che abbiamo fatto al numero verde, si è capito che il 18 giugno si è fermato tutto perché non c'è più l'appalto. I've been driving on that man's wet on the wheel. Traffico, veo chi là, vero chi là. La Zanzara. Il servizio di ritiro dei rifiuti è stato interrotto e il motivo non lo conosce nessuno. Raggi, ma cazzo, ma ascolta la Zanzara, dai! Eccolo il motivo, già ieri sera, ieri pomeriggio era abbastanza chiaro, sentite questa telefonata. Chiama Roma 060606, le dà il benvenuto. Roma Capitale, buonasera, siamo Cristiano Cassiudaro. Buongiorno, senta, io dovrei buttare un frigo o un armadio. Che devo fare? Niente, perché il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio è stato momentaneamente sospeso il 18 di giugno, causa poi il contratto terminato tra la cooperativa e l'AMA stessa. Quindi al momento stiamo aspettando comunicazione ufficiale del ripristino. Dovendo buttare questo frigo e questo armadio, che devo fare? A chi mi rivolgo? Non all'AMA, signore, a qualsiasi altra entità che non si AMA, perché AMA non sta offrendo questo servizio, quindi non le posso consigliare altra via a parte di portarlo all'isola ecologica. Allora, fosse possibile, chiaramente. È stato molto gentile, la ringrazio, buona giornata, arrivederci. Allora, io dico una cosa, no? In apparenza, caro Parenzo, già abbiamo mandato questa piccola telefonata ieri sera. In apparenza, questo signore telefonista che risponde a un cittadino normale ne sa più del sindaco. Cioè, sapeva più lui del sindaco. Cioè, è sconvolgente questa cosa qua. Cioè, questo signore che risponde sapeva tutto. Causa, contratto, terminato, tra la cooperativa e l'AMA, eccetera, eccetera. Sapeva il sindaco tutto. Nulla. Il sindaco, niente. Allora, ragazzi, il caso di Gorino, che ancora, come dire, è sulla breccia, no? È sulla breccia con questi immigrati che brutta sono stati redistribuiti. Brutta, cioè, brutta pagina. Vabbè, lasciamo perdere, che brutta pagina. Hanno fatto benissimo a resistere, hanno fatto benissimo. Il prefetto, incinta. Io dico il prefetto di Ferrara, ragazzi, il prefetto di Ferrara, il quale aveva ricevuto un ordine che non ha rispettato. Cioè, aveva ricevuto un ordine, quello di piazzare 20 immigrati, non era un'impresa memorabile, diciamo la verità. Piazzare 20 immigrati dentro un ostello, giusto, sbagliato, eccetera. Per me è sbagliato, però lasciamo perdere questo argomento. Cosa fa questo signore? Di fronte alla piccola resistenza, che non era la resistenza sul Piave, Parenzo, non era la resistenza sul Piave. Non erano le 5 giornate ma non di erano Milano, armati, non tu. Erano politicizzati, sì. non erano niente, sì. Erano dei signori che a torto o ragione non vogliono i neri, perché a questo torto è assoluto. Vabbè, non vogliono i negri, dico usando io, non argomenti terribili, non peraltro. Vogliono i negri vicino a casa loro. Questo mamma è il punto. Quella, la realtà è questa, no, perché non bisogna negri, nascondersi. Donne e bambini, basta con questa storia. Ma è incredibile, donne, sì, lo so che tu stai ricostruendo, ma dico donne e bambini. Vabbè, allora questi qua, ricordiamolo sempre, questi signori qua non si sono messi con le armi ad affrontare la polizia. E che cosa fa il prefetto di fronte a queste piccole barricate? Cala fa marcia braghe. Indietro. Dai, su, marcia indietro, cala le braghe, come dici tu. Sentitelo, il signor prefetto di Ferrara, Tortora si chiama, Tortora, signor Tortora. Io sono convinto che anche loro, se avessero avuto cognizione dei termini del problema, probabilmente non avrebbero inscenato quella manifestazione. Almeno voglio sperare così. Goro è uno dei 8 comuni, mi pare, della provincia di Ferrara che non ha nessun migrante. L'ostello è stato individuato nella presunzione che non avesse un grande traffico di utenza nel periodo invernale. Cioè, hanno individuato l'ostello presumendo che non avesse turisti in inverno? Amico mio, chiama, no? Fai una telefonata, alza il telefono e chiami il proprietario dell'ostello. Com'è la situazione? Avete turisti? Per quanto tempo li avete? Eccetera. No, abbiamo presunto che non ci sono turisti in inverno. Sono cose incredibili, incredibili. Sì, ma queste attengono all'organizzazione, no, non c'entra niente. All'incompetenza, all'organizzazione, all'incompetenza. Ma non c'entra niente nel merito, con 20 donne e bambini che cercavano soltanto Nicola un tetto Padova. E un letto dove stare. Nicola Padova, iniziamo Nicola iniziamo Padova. Iniziamo a aprire le stalle. Vai Nicola, vai. Le stalle aperte, via, io avanti. Ho chiamato ieri sera perché scleravo sentire Parenzo non insultare questi qua che hanno tutto il diritto di incazzarsi. Perché noi come paese non abbiamo un cazzo da offrire, neanche noi italiani, tantomeno a gente che viene da fuori. Non abbiamo un cazzo da offrire. Sgarbi dice che siamo ricchissimi e li possiamo accogliere, assolutamente. Sgarbi dice una stronzata, non è vero. Cosa gli offriamo? Anche secondo me dice una stronzata in questo caso. Anzi, dico solo una cosa al professore. Maestro, professore Sgarbi, portali a casa tua a Ro Ferrarese. Eccolo qua, un altro. Portali a casa tua a Ro Ferrarese. Ma sai che è uno degli argomenti più idioti del porto? Non mi interessa, voglio polemizzare con Sgarbi. Dice che siamo ricchissimi, dice che a parte che dovrebbe iniziare a pagare un po' di tasse, ma comunque dice che siamo ricchissimi invece di fare sempre il nero, perché ha ribadito che gli piace fare il nero. L'ha detto e voglio polemizzare con lui su questa cosa qua. Allora, è sempre Sgarbi, è sempre intoccabile. Quando dice che gli immigrati, noi siamo ricchissimi e ci possiamo permettere di portare gli immigrati, li porti allora, dato che è lì a Ferrara, ne porti un po' a casa sua a Ro Ferrarese. Benissimo, stanno perfettamente là, spazi enormi, eccetera. Li accolga lì. Nicola, che dici tu? No, vabbè, ma questo dovrebbe farlo anche Parenzo, forse così si renderebbe conto. Ancora con sta cazzata. Ancora con sta cazzata del portali a casa tua. Ancora con sta cazzata del portali a casa tua. Non si può sentire questa stupidaggine. È lo Stato, il welfare, è lo Stato che si deve occupare di questi servizi. Non è il privato cittadino che può fare il volontariato se lo vuole o no. Questo che è ovvio, che un cittadino italiano sarai tu. Che un cittadino italiano. Parenzo, piacere. Sì, vabbè. Un cittadino italiano allora? È ovvio che un cittadino empatizzi di più con un connazionale che non ha un cazzo di lavoro, magari pure laureato. Ma che c'entra? Piuttosto che con la fame nel mondo, ma è ovvio! Ma quale fame? Ma qui parliamo di donne e bambini. Ma parliamo di 20 donne e bambini che non portano via il lavoro. 20 donne e bambini. Ma che t'hanno fatto? Ma Nicola, ma tu lavori? Tu lavori? Sì, lavoro, gli immigrati ti hanno tolto qualcosa, ti hanno tolto la fidanzata. Ma che cazzo dici? A me no, non lo tolgono, ma c'è gente che non ce l'ha. Allora, e quindi quei 20 tolgono agli italiani. Ma ragazzi, non ce l'ha la gente che è già qua, non lo avranno loro. Ma è qui non stiamo punto. Parlando di lavoro a questi, non stiamo parlando di lavoro. Mi fermate un attimo, una cosa è chiara. Non è che si può cominciare ad invocare. Tu non hai futuro di sicuro. Allora, non è che si può cominciare ad invocare siccome sono donne e bambini, perché di donne e bambini in quella condizione ce ne sono milioni ancora in tutto il mondo. E non ci possiamo fare carico di milioni di donne e bambini. Per cui non è il punto. Sono donne, Nicola, perché si dice si dice sono donne, sono bambini. Certo. Che cazzo hanno bisogno c'entra? Di una prima ce accoglienza. Ce ne sono milioni in sono tutto il mondo. Sono in cerca di una prima accoglienza. Sono in cerca di una prima accoglienza, non di condurre la zanzara, anche se ma un domani c'entra? Noi avremo Mohammed a condurre questa trasmissione, per fortuna. Vai a far culo, sicuramente, sicuramente, altro Stefano che... Torino, vai Stefano. Ecco. Altro razzista, via. Ma che forza. Ne sai? Che ne sai? Ma immagino, dai. Che forza, Stefano è razzista. Avanti, dai. Avanti, sentiamo. Portali a casa tua, dai. A casa tua, razzista. Prati, su 40 persone, tutti negri, dai, avanti. Forza, Stefano è razzista, dai. Avanti, dimmi, sentiamo. Vediamo. Parenzo, no, non ti arrabbiare, non sono mica razzista. Stavo per dire che se io fossi stato nella situazione di quei personaggi e avessi saputo che sarebbero arrivate donne e bambini, non mi sarei mai neanche lontanamente immaginato di fare la porcheria che hanno fatto. Chi? Ma proprio neanche lontanamente. Che porcheria? Chi ha fatto la porcheria? Scusami. Ma via, alzare le barriere quando sai che arrivano donne e bambini. A parte che molti non lo sapevano, Ragazzi, appunto, bisogna appunto, uscire fuori da questa storia qua. Questi signori qui, la questione delle donne e dei bambini viene portata come simbolo per dire che quelli là sono dei razzisti. Non è così. Insieme alle donne e ai bambini arrivano dopo un po', e questo è giustissimo dirlo, arrivano un po' altre persone, si forma una comunità e quelli hanno tutto il diritto di dire no, noi non vogliamo gente in mezzo ai coglioni, hanno tutto il diritto di dirlo. Qui è lo Stato che non ha fatto la sua parte, perché lo Stato doveva intervenire e fare applicare la legge. Invece di fronte a 40 persone in piazza se la fanno sotto, chiaro? Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Lombardia, sulla statale dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti e code per incidente all'altezza del Terminal 2 in direzione della 8. Ci spostiamo sulla Milano-Lecco, rallentamenti e code per incidente tra lo svincolo di Monza e quello di Monza Nord in direzione di Lecco, ed ancora sulla Milano-Meda, code verso Milano, anche in questo caso per un incidente tra Seveso e Varedo. Sulla tangenziale di Pavia si viaggia tuttora incolonnati tra il raccordo Pavia e Bereguardo, Pavia Nord in direzione Milano, sempre a causa di un sinistro, e per incidente sulla 7 Milano-Genova è chiuso l'innesto con la A21 in uscita sulla carreggiata in direzione Milano. Incidente anche sulla 1 Milano-Napoli, code tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. Per lavori sulla 12 Genova-Rosignano, code tra Sarzana e Carrara verso Rosignano e in direzione opposta tra Massa e Sarzana. Infine, per incidente, traffico intenso, si viaggia in coda sulla tangenziale est di Roma tra via dei Monti Tiburtini e la galleria Giovanni XXIII. È tutto, ci risentiamo tra un'ora. La Zanzara. Breaking news. C'è una forte scossa di terremoto che è stata avvertita poco fa in tutte le Marche, nelle zone tra l'altro già terremotate dell'Ascolano, ad Ancona, a Fabriano e Pesaro. Molte persone sono uscite di casa spaventate, tantissime le chiamate ai vigili del fuoco. Non si sa ancora se ci sono stati dei danni. La scossa di terremoto è stata avvertita, questa è l'ultima notizia, anche a Pescara e all'Aquila. Aggiornamenti quando possibile, naturalmente, nelle prossime edizioni di GR24. Sì, mi aveva avvertito un mio amico a un certo punto durante l'intervallo, eccetera, eccetera. C'è stata la scossa di terremoto. No, ma anche a Roma, diciamo, stavamo per uscire, eravamo qui al palazzo, al secondo piano di Piazza Indipendenza. A un certo punto dico: che cazzo, è Donato da Varese, sta tremando tutto qui, il microfono. Tremava tutto a Roma. Tutto, stavamo con i colleghi della redazione, stavamo per uscire, poi siamo messi per le scale. Ma tanto, per le scale? Dovete uscire fuori per strada, per le scale che c'era. Se siamo al secondo piano, cosa faccio? Mi butto dalla cosa. Okay, no, per le scale non succedeva nulla, no? Le scale ti crollano addosso al palazzo. Ci siamo messi qua per le siamo al secondo piano, che devi fare polemica anche su questo, eravamo qui, tremava tutto, che cazzo è, ho detto adesso dai che chiamerà qualcuno che dirà che è colpa di scie chimiche. Ma dai, a proposito di scie chimiche, ce l'abbiamo quell'audio di quel consigliere regionale dei 5 Stelle? Vedrai. Antonio dalla provincia di Varese. Antonio, provincia di Varese, vai. Buonasera, volevo solamente dire: ma come cazzo fai a dire che è un nostro diritto mandare via questi profughi? Io ma non, come che cazzo cosa avrei detto io, cretino? Cosa avrei detto? Chi è cretino, scusa? Tu, perché non ho mai detto una cosa di questo tipo, dunque sei un cretino. No, l'hai sempre detto, ma cosa? Che cazzo stai dicendo? Hai detto che è un diritto dei cittadini fare delle barricate e non ospitare queste persone. Io ho detto che... E basta sentire quello che cazzo stai dicendo. Ho detto che allora i cittadini di Gorino, in questo caso, fanno il loro mestiere, che è quello... Quale cazzo di mestiere? Stai tranquillo, è una metafora, imbecille. È una metafora. Ma stai attento a quello che dici. Ma perché? Che cazzo di metafora? Perché che fai? È il mio diritto far rispettare le leggi, punto e basta. E infatti questo, e non mandare via le poveri di Cristo. E infatti questo ho detto che il prefetto ha fatto malissimo questo? Che allora, il prefetto meglio, che il senti, stai tranquillo, mi sembra che sei un po' alterato, sei un po' alterato, alterato perché guarda le fai di tutte per far incazzare le persone. Sì. E io manco volevo intervenire. Ma perché sei incazzato? Perché sei così incazzato? Spiegami. Sono incazzato perché come si fa a dire ad una radio dove ascoltano milioni di persone una cosa del genere? Cosa che ho detto? A protestare perché cosa? Questi poveri cristi che cazzo di diritti hanno? Ma che sono vuol noi, dire? Noi ma che abbiamo i diritti. Benissimo, accogliamo milioni di poveri cristi che vengono da tutto il mondo. Accogliamo a questo punto, secondo il tuo criterio, milioni di persone che vengono da tutto il mondo e che io sono nella merda. quelli che fanno, io accolgo quelli che fanno chilometri a piedi, che attraversano un mare con il rischio di morire. Io li accolgo. Sì, accogli tutti, a prescindere dal fatto, a prescindere dal fatto che siano profughi o meno, accogli tutti, benissimo. Ma che cazzo chiunque ha fame, quali profughi o meno? Appunto, tu lo stai dicendo. La legge va rispettata. La legge va rispettata, allora? Questo è il mio diritto. E allora? Che quando vengono qui rispettano la legge, ma non che li mando a casa, non che faccio le barricate per non ospitarli. E dunque? Ma di che cazzo stiamo parlando? E dunque cosa? E dunque cosa? Una cazzata a mandarli via. Ma mandarli a parte che non sono stati mandati via. E quell'assassino, quell'incompetente di prefetto avrebbe dovuto far rispettare le leggi. Questo è vero. E questo è quello che guarda che su questa ho detto la stessa cosa. Guarda che ho detto la stessa cosa anche tu. E vabbè, l'unica cosa giusta che hai detto io ho detto che i cittadini di Gorino hanno tutto il sacrosanto diritto. Aspetta un attimo, siccome sanno come viene gestita l'immigrazione in Italia, cioè, per dirla con una metafora questa, a cazzo di cane. Noi sappiamo solo la gestione a cazzo. Nessuno mai dice invece quando vengono gestite bene le cose. E dite pure quando vengono gestite ho bene. Ho detto semplicemente che cos'è che ha detto Parenzo ieri? Questo immigrato che veniva dall'Albania. Ma cosa c'entra? Quello è un altro discorso. Non c'entra un cazzo, quello chissà che era. Non era un emigrato, non era uno che ha attraversato il mare. Ma cosa c'entra? Ma quella è una roba vecchia, è una roba vecchia. Ma è una roba vecchia di non so quanti anni fa, di uno che è venuto all'inizio degli anni 90. Non c'entra un cazzo, ci sono situazioni in cui gli emigrati si sono. E allora? E allora non bisogna fare dire che mandarli via e che è un nostro diritto. Certo, perché ritorniamo indietro di anni. Antonio, vedi che c'è una parte di gli abitanti di Gorino sensibile. Hanno tutto il diritto di non volere la gente vicino a casa loro. Hanno tutto il diritto. Hai detto pure perché sono neri, hanno diritto a non essere qui. Non hai capito ma tu non hai capito un cazzo. Ma non ho detto siccome questo. Sono neri, hanno diritto a mandarli via. Vabbè, io ti lascio parlare. Ho detto semplicemente che gli abitanti di Gorino non li vogliono intorno a loro perché sono negri. Quello deve essere chiaro. È pazzesco. È razzismo legalizzato. Mi spieghi possono fare questi qui che sono nati in Eritrea e in Somalia e tu invece sei nato in Italia. A parte che lo sai tu che sono nati in Somalia e in Eritrea. È arrivato il terzo mondista dei Noantri. Il terzo mondista dei Noantri a farci la morale alle 19:25. Accogliamoli tutti. Dai. Io dico solo che bisogna rispettare le leggi. E dunque? Quale leggi? È la legge. Quello prenditela col prefetto. Poi all'interno del mio paese devono rispettare le leggi. Sì. E qui ci dovrebbe essere non i prefetti. Di quel cazzo di prefetti di Ferrara che ha tirato giù le braghe per quattro, mamma mia che non saprei nemmeno come ma è così, su questo hai ragione, ha calato le braghe per quattro persone che si sono messe per strada, non c'è dubbio, mentre altre volte secondo me giustamente la polizia non si è fatta scrupolo quando doveva manganellare magari degli studenti all'università, quando doveva manganellare qualche volta degli operai perché c'erano problemi di ordine pubblico, ma secondo me in alcuni casi ha fatto benissimo. In questo caso avrebbe dovuto smantellare, secondo la logica della prefettura che decide di mettere lì a Gorino 20 immigrati, smantellare quelle quattro 20 quelli che sono. Avrebbe dovuto smantellare quel piccolo presidio, smantellarlo, far passare il camion e metterli lì. Siccome sapeva di avere sbagliato, perché non aveva consultato bene l'ostello, l'avete sentito prima, no? Cioè quello che ha detto il prefetto di Ferrara. Siccome ha capito di aver sbagliato, ha calato le braghe. Antonio, poi sull'accoglienza degli altri non mi devi rompere i coglioni a me. Io dico Io ho detto a te a seconda di quello che parli. No, amico mio, noi non possiamo accogliere solamente le persone solamente perché sono disperate, capito? Non le possiamo accogliere solo per quello, chiaro? Perché, no, io invece le voglio accogliere. E mettitele a casa tua, allora. Mettitele a casa tua. Mettile a casa tua. Non c'è problema. Bene, benissimo. Dacci l'indirizzo. Dacci l'indirizzo. Ma che stupidaggine. Dacci l'indirizzo. Dacci l'indirizzo al telefono. Dammi il telefono. Dammi il telefono. Sono nati in Eritrea, che cazzo di colpa vai, hai vai, fornisci il telefono così sei pronto all'accoglienza, vai, fornisci il telefono così ti chiamano subito per l'accoglienza. Ma vai. Che argomento dammi è il numero di telefono, di dillo ma pubblicamente Antonio, è? Stai zitto un attimo, dai. No, ma certo, che sto parlando con Antonio. Il numero di telefono, vero? Vai, forza, dammi il numero certo, di telefono. Certo, non c'è un cazzo da fare io. Dammi il numero di telefono e l'indirizzo, forza. Tutti quelli che chiameranno. Dai, dammi l'indirizzo allora, sono disponibile. Ma non niente, ma non te lo niente a va bene, cali le braghe, prima fai le promesse e poi cali le braghe, cali le braghe. Ma quali promesse, caro le braghe? Quali promesse, caro le braghe? Io mi metto davanti per potervi ospitare. Bene, per ottimo. Posso, certo, bene, fornisci l'indirizzo posso. Poi, così lo così lo dico. No, è certo, così poi lo diamo alle autorità competenti. Lo diamo alle autorità competenti. Così è bravo, proponiti, vai alla prefettura di Varese, vai alla prefettura di Varese. Io l'ho già detto. Vai alla prefettura di Varese. Vai, benissimo, proponi per accogliere i somali, accogliere gli eritrei, vai, vai. Vattene a casa tua tranquillo e sereno. Ma io non li accolgo. Io non li accolgo. A mangiare e poi di tutte le cazzate che vuoi davanti alla radio. No, le dico. Tante persone che ti ascoltano. Le dicono dove vi pagano. Le dico dove vi pagano. Capito, chiaro? Hai voluto farmi incazzare, già sei riuscito. E come a me spero che se ne incazzano anche tanti. Bene, ciao Antonio, ciao. Fabio Torino, Fabio Torino, vai. Fabio. Sì, ciao. Ciao. Dimmi. Dimmi. Ascolta, la mia è una proposta provocazione, ovviamente. Io dico, facciamo un referendum su questi migranti, perché qual è il referendum? Secondo me... Spiegami che c'entra il referendum adesso. Abbiamo già tanti d'accordo. Problemi noi con il referendum, no, il 4 dicembre, noi facciamo pure il referendum sui migranti, dai. Certo, facciamo esprimere un'opinione agli italiani, vediamo quanti sono d'accordo a questa ma su che cosa? Il referendum è che è consultivo su che cosa? Ma la solidarietà ascolta. Non è una cosa da mettere a referendum. Ma di che parla? Perché ma io dico se gli uno aiuti umanitari un italiano... non sono da sottoporre al referendum, ma qui siamo al delirio ormai. Dice c'è una persona da salvare in mare. Dice aspetta, facciamo un referendum. Dice guarda che però sta affogando. No, bisogna fare un referendum. E come voterebbero la maggior parte degli italiani? Cosa pensa la gente? La maggior parte direbbe di salvarlo se uno sta affogando in mare. Ma Fabio, di che state parlando? Fabio, no, sta parlando di salvarlo se no. Vedi, questa risponderebbe che è favorevole solo chi ci lucra, come quello che ha telefonato probabilmente prima, oppure chi non ha una responsabilità, perché se tu hai dei figli mamma come mia. Me questi... e che ti fanno scusate 20 ragazzi donne, però bambini, scusate fanno, ragazzi eh? fermi un attimo scusate allora mettete se ragionato così gli americani e gli italiani che vanno a rubare il lavoro agli americani e gli italiani che vanno a rubare il lavoro a quelli che stanno in Inghilterra, questi non lavorano, una persona che vive in un paese e si vede la situazione che cambia. Ecco, esatto. Allora, ha ragione Fabio, perché la situazione... Aspetta un attimo, Fabio, una situazione... È molto semplice la cosa. Un abitante di Gorino, il quale ci ha messo magari 20 anni a comprare la sua casa. Mettetevi allora? Nei panni, aspetta. Un abitante di Gorino, il quale a un certo punto gli viene detto all'improvviso un giorno senti, qui arrivano 20 migranti. Ma mica stanno a vita lascia lì. Perdere... Ah, ma no, non stanno a vita lì, non gliele frega niente di stare a Gorino a questi qui. Non gliele frega nulla, gli fa schifo Gorino. Gli fa schifo! Vogliono andare le grandi metropoli, a Berlino, sì. Londra, dove sì, c'è intelligenza, Berlino, Londra, vivacità, sì. Non vogliono stare a Gorino, neanche chi vive a Gorino vuole stare a Gorino, hai capito o no? Dai, a Gorino, ma chi se ne frega di Gorino? Fermo ma lì. Uno andrà a Firenze, fermo. No, andrà a vedere Brunelleschi, andrà a Gorino, ma che cos'è Gorino? Tra Parenzo e Cruciani non riesco a decidere chi è più cretino. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. David, Beppe, Gorino è in provincia di Ferrara, è vero, ma per piacere non ripetetelo così tante volte, che nessun ferrarese è contento di essere rappresentato a livello nazionale dagli abitanti di Goro e Gorino. No, non nessuno è contento, per piacere, non ditelo più, che è una vergogna. Renzo, io sono romagnolo e ti dico una cosa. I ferraresi non sono né carne né pesce, non sono veneti, non sono emiliani e tantomeno romagnoli. Per piacere, non confondiamo la merda col cioccolato. Grazie. Nobody gonna take my girl, gonna keep her to the end. nostro problema è che i nostri figli devono giocare a pallone, i nostri bambini devono girare e non deve, quella gente lì non ci deve essere nel nostro paese. Mi sembra una cosa per impietosire, ci sono donne e bambine, allora voi non li volete, siete dei razzisti, siete... non è questo il discorso. Altre voci da Gore e Gorino, avete sentito? I nostri figli devono giocare a pallone. Incredibile. Donne e bambini messi lì per impietosire. I politici pazzesco. Sono 70 anni che raccontano balle, perché il punto è questo: la gente non si fida. La quelli gente. Là non si fidano. In questo caso, gli abitanti di Gorino non si fidano di quello che dice il prefetto, non si fidano di quello che dice Alfano. Ma come si può Ma dare non torto? C'è da fidarsi come di si niente. Può dare torto a questi? Si parla di 8 donne. Ma oddio, ancora con sta storia per impietosire. Hanno, hanno o ragione 12 questi. 12 donne che e 8 bambini, insomma 20 persone. 20! Sarebbe stato 20, uguale anche con gli uomini, uguale. 20 uguale. Persone. 20 persone ancora. Che sarebbero dovute essere ospitate in un ostello. Sì. In un ostello. Senza che il titolare lo abbia saputo solamente all'ultimo. Questo è un altro aspetto, ovviamente, un altro aspetto, di organizzazione. Ma non c'entra con la reazione di queste persone che dicono: i nostri bambini devono giocare a pallone. Beh, sì, perché è un problema a giocare a pallone. E le donne e i bambini profughi che ma cosa quelli rompono? Non, quelli non gliene frega un cazzo. Che cazzo di argomento è? Devono giocare a pallone. Hanno ormai paura, siamo arrivati hanno a un livello paura, di... hanno paura. Hanno perché paura perché di sanno di donne e bambini? No, hanno paura di donne come bambini? Viene gestita l'immigrazione in Italia. Ma quale ancora voci, gestita, aspetta, senti queste qua, senti. Noi come cittadini non ci fidiamo. Noi vogliamo la nostra Castelazzano, come io l'ho conosciuta in questi 11 anni che sono qua, e voglio andare avanti, perché io qua sto bene, se sto bene no. Con tutta questa comunità. Se arrivano i migranti, vabbè. Che succede? Che stiano nell'albergo, in prigione, come se fossero in prigione, e se devono passeggiare in giro no. Ci siano no. Le cose. No, Duguay, mi fermo. Sì. Come fossero in prigione. Mi pare che anche Maurizio Belpietro, diciamo, che solitamente non è esattamente un moderato, un irenico, quando ha sentito la pazza irenico? Irenico vuol dire un uomo di pace, da Irene. No, ma lo so io, irenico. Tu lo so. Un uomo irenico. Diamo un po' di... Allora, no, per dire, cioè... gli imbecilli che chiamano, non quelli che ascoltano, che sono la grande maggioranza di gente per bene, non educata, sanno cosa eccetera. Vuol dire irenico. Gli solo gli imbecilli che chiamano. Quindi gli imbecilli che chiamano possono prendere il cellulare e mettere su Google Parenzo ha detto irenico, parola irenico, e capiranno cos'è. Se anche Maurizio Belpietro ha le parole di quella pazza, di quella signora, beh, di quella diceva, razzistella, semplicemente... di quella razzistella, devono stare come in prigione, donne che non hanno commesso alcun reato, devono stare in prigione dentro l'ostello, perché i suoi figli devono giocare a pallone, nipoti, non possono magari, vedere sì, nipoti, o nipoti sì. Il colore nero, anche lui si è indignato, ha detto no, però questo non si può dire, vuol dire che si è toccato davvero il fondo, vuol dire si è che scandalizzato, si è perché fa il conduttore davvero. Senti il qua fondo. Molestano le donne, fanno i bisogni per strada, sono arroganti. Sì, un altro abitante di Gorino, senti. La sera ha paura di uscire perché inseguono, ci sono i gruppetti, le donne le molestano e cose varie, dopo dei vari bisogni che fanno nelle strade, nelle case, sono un po' arroganti, diciamo. Edoardo Modena, vai! Ah, perché gli ultras invece non fanno la pipì per strada. Edoardo no? Modena, ma questi se la prenderebbero con chi? No, no. Dimmi. Sono uno di quegli imbecilli che quell'idiota di Parenzo. Ecco, benvenuto, buonasera Parenzo. Dottore in legge insieme al figlio di Bossi in Albania. Bravo, così no, Albania non l'ho studiato mai in Albania. Come te, un cretino parassita. Piacere, come Parenzo. Te che vivi. Piacere, nel Parenzo. Nel tuogolo dei comunisti. Sì, certo. Piacere, Parenzo. Il tuo curriculum non andrebbe sì. Nessuno. Se non fossi un comunistello, sì, sei molto sì. Più pagato. Quando sei. Sì. Impari a telefonare intanto, perché non si sente un cazzo. Sì, si sente, impari si intanto sente, a telefonare. Si sentono se delle interruzioni. Sì, impari a interruzioni del cervello, sono del sangue che non gli arriva, dell'ossigeno che non gli arriva, evidentemente. Edoardo, quello... allora? Schifoso. Eccolo qua, piacere, benvenuto. Edoardo, però bisogna che uno ti sentiamo, perché richiamatelo, dai. Si faccia Milano, dare un vai. Telefono da un migrante eventualmente, visto sì, che loro girano molto tanti. con gli smartphone. Così dicono questi qui. Beh no, è vero, è così. Se ne faccia dare uno. Sì, pare che ci telefono, sia una protesta in un albergo, sì, non so dove, non vicino, vicino a Venezia, l'hotel Byron di Malcontenta, proposito. In cui praticamente questi signori con lo smartphone in mano protestano, sì, perché pare smartphone. Che vogliano, così, smartphone in mano protestano, ma perché ma possono avere un telefono? Ma non perché vogliono vestirsi meglio. Pare che protestano perché vogliono vestirsi meglio. Vediamo se è vero, ma hanno ragione. Enrico da Milano. Hanno ragione, perché si devono vestire bene, secondo te, eleganti? No, anche la dignità. Possono scegliere di vestirsi eleganti. C'è la dignità di come ci si presenta. D'accordo. C'è la dignità di avere dell'acqua per farsi la barba. Beh, quello ad esempio. Sì, d'accordo. C'è la dignità di potersi lavare. Beh, quello non c'è dubbio. Non parliamo di bestie. Enrico, parliamo Milano, di persone. Vai. Enrico, vai. Per quanto riguarda il discorso di Don Giuseppe Svanera, per cambiare discorso, sì. Sindaco di Platì, io volevo capire... No, non è il sindaco, è un prete di Platì, sindaco è un altro. Sì. Allora? Volevo capire come mai, cioè, senza entrare nel merito della questione dell'ordinanza di Grassi, che del costo della Reggio Calabria, allora? Come mai voi eravate così contrari, sia te che Parenzo, alla sua posizione, quindi che lui doveva per forza pubblicamente dovessi... esporre contro l'andrangheta che mi pare normale che un prete, dopo le parole del Papa soprattutto, si possa e si debba esporre contro la mafia e contro l'andrangheta. Non ma capisco certo. Perché non un prete a Platino non debba dire l'andrangheta mi fa schifo e la mafia è un orrore. Certo. Invece questo signore ha cominciato a dire la mafia io non lo so, non l'ho mai vista qui, sono 2 anni che sto qui, non l'ho mai sentita, non ho mai ricevuto pressione, cioè ti credo, cioè, poi fai i funerali allargati al boss appena morto e tutto è chiaro, cioè tutto si è chiarito. Un prete non è che deve, ha il dovere di andare sull'altare e dire l'andrangheta mi fa schifo. Beh, certo. Ma è normale questa cosa qui, dopo le parole del Papa. Dovrebbe farlo, e se non lo fa è una vergogna. Ma pubblicamente davanti a milioni di persone. Ma è quello che deve fare, altrimenti ma che cazzo lo fa? È quello che deve fare, se c'è una connivenza, ma scusi. Come faranno a ribellarsi i cittadini di Platì se anche il loro capo spirituale, cioè il prete, capo spirituale di una comunità, come lo vuoi chamare, il capo spirituale di una comunità, a proposito, è connivente con quello schifo? Vogliamo provare a fare una telefonatina a Platì? Le solite telefonatine a Platì, vediamo. Ma che non succede. So se sia a caso, se ci sono ma tanti sì, problemi dai, in giro. Chiamiamo qualche barbaro a Platì, dai, chiamiamo qualcuno che si chiama Barbaro a Platì, vediamo che succede. Pronto. Sì, buonasera. Buonasera, così è te. Istituto Sondaggi Italiani, buonasera. Volevamo capire se ha partecipato ai funerali del signor Barbaro. Non dai tempo, non dico non dai tempo, se no partecipava, certo che partecipava. E come mai partecipava? E come mai? Perché che paesano? Lei conosce il signor Barbaro, lo conosceva? Io conoscevo, sì, che era un bravo figliolo. Un bravo figliolo? Sì. E basta, non sta diventando. Sì, ho capito, ma questo qua apparteneva all'andrangheta. Di fronte alla parola andrangheta si chiude il telefono. Io sono un tossico, io sono uno zanzarainomane. Breaking news. Un aggiornamento sulla scossa di terremoto che si è sentita in tutto il centro Italia intorno alle 19:10, quindi circa mezz'ora fa. Magnitudo 5.4, il sisma ha avuto l'epicentro nella provincia di Macerata, in particolare a Castel Sant'Angelo sul Nera. E sentiamo dunque il sindaco Mauro Falcucci, raggiunto poco fa da Sky TG24. Come abbiamo reagito male, perché... stavamo in comune, eravamo con tutti i tecnici, niente, piove pure, è andata via la corrente, potete immaginare come si sta in un momento che continua lo sciamatismo. Non abbiamo parole, siamo qui in piazza davanti al comune, saremo una quindicina di persone con i tecnici, non siamo in grado adesso di... abbiamo telefonato, ci saranno stati sicuramente qualche crollo, però non siamo in grado di fare altro perché non c'è manco energia, stiamo aspettando e siamo qui in piazza sotto lo sciamatismo. Queste dunque le parole di Mauro Falcucci, sindaco di Castel Sant'Angelo, che si trova proprio nell'epicentro del sisma, che si è avvertito fortissimo anche nei centri più vicini, Nera, Visso, Ussita e Preci, sono dunque comuni dell'epicentro che ha interessato, ricordiamo siamo nella provincia di Macerata. Tanta paura e tanti crolli di cornicioni si registrano a Visso, la popolazione si è riversata in strada, numerosissime naturalmente anche le telefonate ai vigili del fuoco. Fanno sapere le autorità che ci sono grossi problemi sulla Salaria. L'entità di questi problemi e la natura precisa al momento non siamo ancora in grado di comunicarvela, ma poco fa abbiamo raggiunto Gabriele Tosi, volontario del CISOM, che è il corpo di soccorso dell'Ordine di Malta, si trova ad Amatrice, che naturalmente è un centro non lontano dall'epicentro, da Castel Sant'Angelo sul Nera. Sentiamo cosa ci ha raccontato. si è stata una scossa 5 punto qualcosa, probabilmente con epicentro Macerata. Siamo stati attivati adesso dalla Protezione Civile, siamo sui mezzi di soccorso per andare a girare nelle frazioni sopra Amatrice a vedere se ci sono stati dei crolli, se ci sono dei feriti, e siamo attivati in questo momento. È stata molto forte. Guarda, sono caduti i cornicioni, ci sono di nuovo crolli? Non lo sappiamo, perché qui piove tra l'altro di rotto, siamo sotto la pioggia, non sappiamo bene cosa è successo. Nel comune di Amatrice questo non ci riguarda perché non c'è più popolazione, però sono spente tutte le luci, sono saltate le linee di comunicazione e adesso stiamo andando nelle frazioni sopra Amatrice. Con che mezzi? Centauri, con le abbiamo moto? Abbiamo dei Defender, abbiamo dei mezzi fuoristrada di soccorso. La gente è scesa in strada anche a Macerata e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa sapere che questo evento sismico è strettamente collegato a quello del 24 agosto ad Amatrice. Vi facciamo anche sapere che Renzi ha deciso di saltare la registrazione di Matrix per naturalmente tenersi aggiornato su quanto accaduto. La Zanzara. È con noi Giampiero Mughini, buonasera, ciao Giampiero, come stai? Signori, buona serata. Come molto andiamo? Bene. Come andiamo? Andiamo, cerchiamo di andare. Beh, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non so se ci riusciremo. Vabbè, adesso non esageriamo, che c'è? Che è successo? Qualcosa di grave, no? No, beh, insomma, la situazione in generale non è delle più elettrizzanti. Vabbè, dai, alla fine, che succede di particolare? Non succede? No, nulla, certo, rispetto ai ragazzi che nel 14 andavano all'attacco con la baionetta, sono scioccati. Bravo. Senti, che ne pensi della vicenda di Gorino anche tu? Hai fatto qualche riflessione particolare? Cioè, quella gente lì che è scesa in piazza con quelle quattro barricate alla fine, sono loro da colpevolizzare? Scacciando donne e ma bambini. Sì, ma lascia perdere, magari non lo sapevano che erano donne e bambini, dai, anche se non è che possiamo accogliere tutte le donne e tutti i bambini disperati del mondo. Beh, ma quei 12 onestamente in un paesello che non ne ha neppure uno, onestamente, poi magari un pochino mugugnare, ma non fare delle barricate per otto bambini, perché sennò, ragazzi, certo che la situazione è facile dal salotto di casa nostra dare lezioni, questo è ovvio. Detto questo, che un paese italiano faccia le barricate per otto bambini assegnati in un certo posto, e dire che è squallido è la minima cosa che io possa dire. Però hai detto una cosa giusta, Giampiero, su questo io non sono d'accordo con te, perché è facile per noi, siamo qui a Roma, tanto gli immigrati sotto casa nostra non vengono. A Gorino, invece, a Roma, Giuseppe, io non sono stupido. Okay, no, ma lo so, ma non è che te lo sto dicendo perché sei rincoglionito, lo sto dicendo perché so che ho una grandissima stima di te. E sto dicendo semplicemente che è semplice, facile. Tu al Rione, no, al quartiere naturale, Monteverde a Roma, io a Milano nel quartiere residenziale. E ciononostante continuo a dirti che otto bambini, insomma, dai, su via Giuseppe, allora. La tragedia di una tale entità, la tragedia, va trattata naturalmente con senso della misura, comprendendo le ragioni e degli uni e degli altri, però otto bambini che sono stati respinti da un paesello dove non ce n'è nemmeno uno, cosa dovrebbero fare? Mettere le mine o no? No, però scusami Giampiero, c'è una questione molto semplice, mettiti nei panni di questi signori qua, quali a un certo punto mi ci metto nei panni. No, aspetta, aspetta, mi metto nei loro panni, mi viene da vomitare. Perché? Scusami. Perché ti viene da vomitare? Scusa. Perché insomma non si fanno delle barricate per otto bambini, ma dai, scusami. Si può mugugnare, ma poi mugugnare che cosa? Ma scusami, per otto bambini. Ma scusami, a parte che ci sono anche 12 donne e probabilmente dopo vengono anche i mariti e la comunità si allarga e diventa un insediamento e non sanno dove metterli. E lo Stato non se ne occupa. Stai sbagliando l'episodio. No, non è così, perché quello che viene fuori, Giampiero, è la sfiducia da parte di queste persone qui, che non sono dei barricaderi, non è gente che è scesa col fucile. Questi qua non si fidano dello Stato perché sanno benissimo come vanno a finire queste cose. Ciascuno di noi non si fida più di nessuno, allora comincia non la guerra civile, ma il cannibalismo. No, però scusa, questi non si fidano di come viene gestita l'immigrazione. Viene gestita a cazzo di cane. Questi è gente che non è che ha fatto un grande ragionamento. Esatto. È scattata per un umore della pancia. Vuoi che io mi commuova dinanzi no, ti fa schifo, ti fa schifo, ti fa schifo, ti fa schifo, ti fa schifo, ti fa vomitare, va bene, ti fa vomitare, d'accordo. Poi però, lascia stare la latitanza dello Stato che cioè, scusami, il prefetto, adesso voglio un giudizio, voglio un giudizio però, di Giampiero su questa cosa qua. Il prefetto di Ferrara, il prefetto, sembra che ce l'ho col prefetto di Ferrara, però mi sono fissato su questa cosa che per me è il punto centrale della vicenda. Di fronte a quattro persone, quattro, non la rivoluzione in piazza, che mettono lì le barricate, pseudo barricate. Che cosa fa? Torna indietro e cala le braghe. Ma quello va licenziato immediatamente, signor prefetto. No. Non mi fare aggiungere nulla. No, no, non aggiungi. Voglio licenziare nessuno. Però certo, un prefetto dovrebbe dimostrare altra autorità e autorevolezza. Dai, se no il primo cretino che qui c'è, dinanzi a casa mia o dinanzi alla vostra redazione, eccetera, qua non è possibile. E ci vuole un senso per l'appunto della misura. Io capisco che lì ci fossero, arrivassero 500 transfughi delle tragedie africane, perché naturalmente questi non vengono per passare le vacanze, scappano da una tragedia, no, da una scappa. Tragedia infinita. Ma chi l'ha detta? Alcuni sì, altri no, altri scappano solo per fame. Ma solo tu per fame. Il viaggio ma delle scappano per del fame, ragazzi. Scappano perché mesi. Vogliono cercare fortuna, non dire cazzate, ragazzi. Certo, i profughi anche. Sono una minoranza, quelli che scappano dalle guerre. Scappano perché hanno fame. Non ma possiamo accogliere fosse. Tutti quelli che ma hanno fame. Mi avete rotto i coglioni su questa cosa qua. Non possiamo accogliere tutti quelli che hanno bisogno. Non stiamo dicendo che dobbiamo accogliere tutti, Giuseppe, perché la nostra testa continua a funzionare. Quegli otto bambini, quel paesello se li poteva prendere esatto. Tranquillamente. Allora fermi un attimo per la pubblicità, poi torniamo con Giampiero perché voglio che commenti da romano e soprattutto da abitante di Roma la famosa congiura dei frigoriferi. A tra poco, a tra poco. La Zanzara, sono le nostre due ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. Allora, c'è da segnalare, caro David, c'è da segnalare che gli abitanti di Gorino addirittura sì. Hanno fatto una grigliata per festeggiare il respingimento. Che vergogna. Una che grigliata, schifo, veramente. Capito, Giampiero? Una grigliata. Brutto, veramente schifoso. Siamo con Giampiero Mughini. Caro Giampiero, ti faccio ascoltare le parole dell'assessore a Roma all'ambiente, la Muraro, già molto sì. Contestata, come sai, per sì. Varie cose di cui non me ne frega assolutamente nulla. Certo. I suoi rapporti con Cerroni. Le poi cose... qualcuno vedrà, giudicherà, valuterà. Ma sì, ma chi se ne frega, non è quello. Uno, la Muraro per me va giudicata solamente per quello che riesce a fare a Roma nel campo dei rifiuti, dell'ambiente, di quel cazzo che è. Però ti faccio ascoltare quello che ha detto a proposito del cosiddetto complotto del frigorifero sì. Evocato dalla Raggi. Non solo lo ha confermato, ma ha detto sì. Pure un'altra cosa. Senti. Diciamo che a Roma se metti un materasso vicino a un cassonetto viene fatta la foto e la città in tutto il mondo viene detto che il problema dei rifiuti non è stato risolto. Non escludo una strumentalizzazione di questo proprio per far capire che non stiamo affrontando il problema di Roma. Proprio ieri hanno finito di pulire Piazza Giureconsulti e stamattina c'erano un materasso matrimoniale, quindi è anomalo che uno prenda il materasso e lo butta per strada. È anche anomalo, dunque è anomalo, ma non infatti è anomalo. Mi segnalano le agenzie che c'è un golpe dei materassi. No, ma c'è il problema... proprio un golpe in corso, un no, golpe. Ma il problema più incredibile è che, ripeto per l'ennesima volta, che il sindaco di Roma dice che il ritiro è stato sospeso, quello dei materiali ingombranti, e non sa perché. Ma per... non lo sa benissimo, perché voglio dire una cosa che sappiamo tutti, c'è stato il bando sì, esatto. Per una società che offrisse una certa somma per fare questo servizio, questo bando al maggio scorso è andato deserto e dunque in questo momento a Roma sì. Non è in funzione sì, sì, il sì. Servizio fondamentale del ritiro dei beni ingombranti. Lo riattivassero. Scuola elementare. Il complotto, le cose eccetera sono puttanate, ma parole in libertà. Però scusa un attimo, questo è normale, ma ti pare normale? No, normale fino a un certo no punto. Ma ti pare normale? È normale che siano parole in libertà, cioè volevo dire questo, ma ti pare normale che in una grande città, per motivi di appalti, di cose, con pazzesco. Tutti i dipendenti che ha la AMA, con tutti, però non è la stessa, non riescono cosa, a mettere scusa, in piedi a me... è un servizio specifico, Giuseppe. Beh, ma lo facessero i dipendenti, non si valutano in concreto. detto, sì. Allora uno fa la solita tiritera tutti no, i giorni. No, scusami, non è questione di tiritera, la questione è molto semplice. L'AMA ha migliaia di dipendenti. Sì. Il servizio lo no, devi... No, non è il ragionamento, non è come lo stai impostando tu. Non è che ciascun dipendente dell'AMA lo puoi mandare a ritirare i frigoriferi. Vabbè, come ritirano la mannezza? Un'attrezzatura specifica che può per avere la società sta roba, Cruciani o la società Mughini, capisci quello che ho capito, ma al di là di questo, il servizio lo devi riattivare o no? Non puoi non saperlo. Non puoi pare non saperlo, no? Bando si sia adesso concretizzato e che fra due mesi ricomincia. Tu hai, se tutto tu... questo è sgradevole, non è ma il complotto non c'entra niente. No, ma su questo non c'è, non è che è sgradevole, è una vergogna che una grande città abbia un servizio così importante. Se tu devi buttare un frigo oggi, lo devi prendere, lo devi portare all'isola ecologica. Tu hai bisogno di buttare un frigo, un televisore, una cosa del genere? Beh, io quasi ogni giorno porto via un frigo, eccetera. Siccome sono un uomo di una forza straordinaria, lo porto su un solo braccio. È ridicola la situazione, lo capisci da te. Ti faccio ascoltare quello che ha detto Di Battista sulla questione della riduzione dello stipendio dei parlamentari. Sì. Senti. Mi sforzerò particolarmente da qui al 4 dicembre, sperando che sia l'ultima volta che avremo il dispiacere di vedere il disgusto questa gentaglia amministrarci e impoverirci. La gentaglia prima e poi senti che cosa ha detto su Renzi, malmenato per strada, la gente gli dà del coglione, eccetera. Senti. E si vede che dovunque noi giriamo, qualcuno può essere d'accordo o meno con 5 Stelle, non abbiamo bisogno di scorte. Dovunque si muove il Presidente del Consiglio, gli arrivano pomodori addosso e senza forze di polizia verrebbe malmenato dai cittadini che lo odiano perché è un arrogante, perché sta sui coglioni a tutti, probabilmente anche a se stesso. Sta sui coglioni a tutti questo, sta sui coglioni a tutti, è la verità. Di Battista, uno dei leader dei 5 Stelle, Giampiero. Ma lo stavo dicendo, Giuseppe, un leader di un partito, di un movimento, si chiamino come vuole, che parla a vanvera in questo modo, che parla a vanvera, che straparla in questo modo. Il problema di abbassare le remunerazioni di gente che fa una professione è un problema molto delicato, ma è sbagliato secondo me. Ma soprattutto il risparmio in gioco è assolutamente irrisorio, esatto. E tutto questo è puro esibizionismo che loro fanno per stare sui giornali. Però scusa, quando dice che Renzi verrebbe malmenato se non avesse la scorta, no, Dio santo, in primo luogo in questo momento sta credo sui coglioni, che anche sta se sui ci coglioni fosse, a tutti, questa è la... ci fosse il più grande leader italiano eccetera, con la situazione che c'è i nervi sono molto tesi, ma poi non è bello anche qui che un parlamentare in un certo senso si congratuli con gli umori i più rabbiosi, si crogiola. Senti, a proposito, ti ho sentito un po' bippato da Chiambretti, bippato devo dire, incredibilmente. Come hai detto? Bippato, ti hanno bippato. In che senso? Forse non lo sai. Censurato... Tu ti sei rivisto da Chiambretti? No, ma figura, non ci penso minimamente. No, però aspetta, fra poco ti faccio sentire. Hai detto delle cose, si parlava del pompino di Adolfi, sì. Madonna, eccetera, eccetera. Sì. Le tue parole sono state bippate. Vabbè, ma cosa me ne frega? Ma no, ma ho capito, non te ne frega nulla, questo è evidente. Però è incredibile, seconda serata. Io penso che sia incredibile, che nell'Italia del 2017 non si possa usare la parola pompino. Bravo. Che fa parte del dizionario italiano. No, ho capito. Bravo, però, ha ragione Giampiero su questo. C'è guarda. Contesto e contesto. Ha ragione magari, su ma contesto che cosa? Ma la parola pompino è la parola pompino. Che ma cosa? Stai zitto, dai, ragazzi, buono, ogni volta vi eccitate su questo argomento. È come la parola energia, capisci? No, ma ho capito, ma figuriamoci. Beh, sono adesso... parole che si usano però, tra capito, italiani. Adesso hai capito? Ma dipende da quale contesto. Se io vengo a cena a casa tua, di che cosa? Se io vado a cena da Mughini. Hai capito? Scusami un attimo, Davide. Magari in televisione è diverso. Scusami, ma no? La parola di Madonna, quello che ha detto Madonna su Trump, Hillary Clinton, eccetera, eccetera, quella famosa promessa a chi voterà Hillary di fare un pompino, eccetera, è stata ascoltata in tutto il mondo. Tu dimmi perché non si può utilizzare. Perché c'è contesto e contesto, ve l'ho detto, dai, ma non è che tutto può essere. Ma cosa sbaglio? Stavamo parlando di pompini. Ancora. Ho capito. Ma si parla di questo. Adesso ti faccio sentire come stato bippato. Un'altra parola magari, no? Per essere ti faccio meno... sentire come è stato bippato. Senti. Sentiamo. Madonna durante un concerto dice chiaramente: se votate Hillary Clinton io vi faccio un servizio con la bocca. Quindi sono tutti... Sì, vabbè, se non lo dice è meglio, ho detto servizio con la bocca. Va bene. Io sono veramente stupito da questa io cosa. Io sto qua. Con Chiambretti. Sempre. Io sono stupito. Benissimo. No, ma va bene. C'è anche un gioco delle parti, naturalmente, in quel caso lì. Gioco delle parti, nel senso che Chiambretti interpreta un ruolo, quello del finto perbenista, no? Ah, no, ma che perbenista? No, ma è questo, ragazzi. Sa che in televisione certe cioè, robe imparo, puoi secondo dire, te, magari, Davide, imparo sì, in, te- buono, in televisione Davide, non si può dire la parola buono. Pompino. Dai, no, si può, buono, però. Si può, ma però. Ma scusami, si può, però è normale che qualcuno dica, guarda, forse è meglio che lo chiami in un altro modo. Non vedo scandalo. Non no, vedo non scandalo. Ma no, ma è chiaro che ci stiamo parlando. Non è che lo scandalo del secolo. Lo scandalo non è il bip che è stato messo sulla parola. Non nessuno scandalo. Ti ho detto allora, prima basta. Me ne strainfischio altissimamente. E io ho la detto che secondo me che a quell'ora lì, non si dice in modo preciso e netto Pompino quando si tratta del Pompino. Se si tratta di un'altra cosa la chiama in un altro ma, modo. Ma mi sembra la palissiano, cioè la parola Pompino. E avanti ancora. Ma che c'entra avanti ancora? E ancora. Cioè, ma ancora avanti che cosa? La parola Pompino è una parola entrata nel gergo comunissimo, non comune, ma certo. comunissimo. Se si sta parlando di quella roba lì, perché di quello si parla. Si possono usare altre espressioni. Ma perché espressioni, se si chiama no? così? Perché? La lingua italiana è talmente ricca. Ma cos'è che io non capisco cos'è che ti dà fastidio? Di espressioni. Non riesco ma a capire. Fastidio assolutamente no, ma perché, niente, ma dico che perché dovrebbe dare fastidio a qualcuno? Perché se io ne parlo con te nel salotto di casa mia posso usare quel gergo, invece magari in televisione no. davanti alla gente magari che... in televisione per una questione di educazione. Educazione perché educazione? Perché è una parola ineducata? È una parola ineducata secondo no, te? No, ma è una parola che può che una parola che cosa? Puoi usare altre parole, ma altre perché? Perifrasi. Ma dai Beppe, puoi usare delle perifrasi ricordo, sennò veramente mi rattristo in un modo. No ma... Io, no, ma perché veramente non capisco in questo caso ma non capisco. Si possono usare delle perifrasi ad esempio. No, ma sì, ma d'accordo, ma tutto si può usare, ma dire che utilizzare la parola Pompino è sbagliato, perché è una parola che provoca usare scandalo. Delle perifrasi, Dante ce l'ha insegnato, la gloria di colui che tutto muove, diceva, per indicare, buono, per indicare Dio, non, e dovrebbe saperlo il colto Mughini, la gloria di colui che tutto muove, capito, ma diceva. Ma a me Dante, su oppure, buono, dai. Appunto, ed egli aveva del culo. Ma fatto trombetta buono, allora capisci che è diverso dire scoreggiare oppure dire ed ei dal cul ha fatto trombetta è diverso no mi pare e quindi ma questo ragazzi, sto dicendo ma su ma glielo dice a ma glielo dice a Giampiero che sono a Bughini glielo dico mio. Scusami prendere lezioni di italiano io francamente non intendo farlo lo sapevo però prendere voglio... lezioni di italiano da chi che sia nemmeno da Dante. Non intendo farlo e dovresti prendere da Dante quindi solo quando si deve usare una parola scorreggiare non l'ho mai usata in vita mia ed egli aveva dal cul fatto trombetta di cui non bisogno in quel caso stavamo parlando esattamente di un pompino ancora ma sì ma è cosa è questa la realtà è questa scusami quando Alessandro Manzoni dice andò a ricevere il premio della sua carità usava questo straordinario eufemismo per dire che andò a morire. Allora, siamo la in lingua italiana, siamo in talmente, ma si possono ma usare Davide. Altre espressioni, si possono ma usare altre, no? Su. Ho fatto 3 esami di letteratura italiana e allora, appunto, nella mia vita. Appunto, buono, non c'è bisogno buono. Non c'è bisogno di usare quella parola lì in televisione, questo ti sto dicendo. Vabbè, non c'è bisogno. Però scusami, allora, nel merito, perché secondo te il signore Adinolfi dice che è un atto di sottomissione nei confronti della donna questa roba qui? Ma che stai facendo a me questa domanda? No, ma appunto ti sto dicendo ma gli hanno già risposto, evidentemente da come una donna ha reagito nei suoi confronti lui pensa ovviamente l'atto dell'amore orale non è minimamente un atto di sottomissione, ma è un atto in cui si incastrano il desiderio maschile e il desiderio femminile si incastrano a meraviglia tant'è vero che eccetera eccetera è il tuo atto diciamo sessuale più che quello che ami di più quello che hai amato di più no io lo penso sai in primo luogo gli atti sessuali non è che tu li scrivi su una lavagna e poi dici quale amo di più con ciascuna donna nascono i gesti le tensioni erotiche eccetera e così via certo pensare che in un rapporto d'amore di passione di sensualità, di tutte le cose le più normali del mondo, tra un uomo e una donna, non ci sia il rapporto orale, è fatto dalla donna, è fatto dall'uomo e da animali. Solo degli animali possono pensare questo. Esattamente, ecco. E solo degli animali possono pensare che non ci debba essere un assolutamente pompino. Giampiero, che vuoi che ti dica? Ti saluto. Buona partita. Buona partita. Buona partita. Arrivederci. Grazie. Buon lavoro. Breaking news. Torniamo sulla forte scossa di terremoto che si è verificata nel centro Italia alle 19:11, magnitudo 5.4, epicentro a Castel Sant'Angelo sul Nera in provincia di Macerata. Maria Luisa Pezzali ha raggiunto pochi istanti fa il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, Mauro Falcucci. Sto facendo un giro per le frazioni, sta succedendo che non c'è luce e sta piovendo. Piovigina. E c'è stata una scossa di 5.4, delle devo dire. Ci sono stati i crolli? I crolli, sì, stiamo vedendo dei muretti, ovviamente non riusciamo a fare una ricognizione corretta perché non vediamo, però stiamo cercando di contare le persone per smettere, per fare una meno la cosa più importante della di domani. Gira che andiamo in giù. Sto su una frazione, ovviamente c'è poca gente, vediamo di ritorna degli occhi. Che le devo dire? Niente, aspettiamo che ci arrivi qualcuno. Con calma, siamo davanti alla piazza del comune, io sto facendo un giro per le frazioni. La gente è in strada, sindaco? Sì, tutti in strada, ma è stata molto molto forte, 5.4. Io eravamo con i tecnici in comune, siamo rimasti dentro perché era peggio uscire, poi siamo usciti. Il tempo perché come è previsto, a ritardo, ci abbiamo provato. C'è tanto, c'è paura e dolore, non lo so, non so manco io più quello che c'è. Guarda. Le strade, sindaco, funzionano? Le strade non lo so, so che ci sono delle interruzioni da qui a... Visto, ci sono dei sassi per strada, sta arrivando credo il supporto della protezione civile, stiamo aspettando, io sto facendo una ricognizione sul territorio. Al momento non avete ovviamente segnalazioni di... No, di feriti, al momento non ci ho avuto nessuna segnalazione e contiamo Dio di non averlo, perché non siamo molti, speriamo in quello. Maggiori informazioni durante effetto notte dalle ore 21. La Zanzara. Caro Parenzo, siamo ancora qui. Allora, una delle rubriche più seguite di questa trasmissione. Indovina un po' che cos'è? Una delle rubriche più seguite. Temo sia la rubrica di Radio Razzismo, di Radio Ku Klux Klan. Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardavano i prefetti, come la maggior parte degli statali, è gente che non porta neanche la stilografica con cui firma la condanna a morte degli altri, no? È tutta roba che viene fornita da noi. Quella gente lì bisognerebbe prenderla, mandarla a casa, che non serve una sega, serve soltanto, come si dice, a rompere le balle alla gente. Al tiranno di accecarti. Vorrebbe essere già le barricate, ma col fuoco, con le gomme bruciate per le strade, perché è una cosa improponibile che toccano la proprietà privata. Sali Padania, fai vedere quanto è bello. Allora vorrei dire che è inaccettabile che il prefetto o i prefetti requisiscano gli alberghi per dar posto ai clandestini. Secondo me questo si tratta di razzismo nei confronti degli italiani. Dobbiamo reagire come hanno fatto gli ungheresi, che hanno costruito una barriera al confine serbo, ungherese e poi anche romeno. Questo era Terrone, Le bambine di Gorino, senti che fine faranno secondo l'amico Barin, Parenzo, Barin. Queste ragazze, queste bambine faranno sicuramente una brutta fine, andranno in mano alla mafia, le troveremo sulle strade a prostituirsi o doneranno i loro organi per fare soldi. Vi sembra umanità questa? Non si aiuta nessuno, quando non si può contro anche il regno animale dare il latte all'elefantino che sta morendo e fai morire il tuo. Si dà latte ai propri, contro natura, maledizione. Io non voglio aiutare nessuno, solo i nostri. Caccia oltre il fiume. Non si aiuta nessuno, è contro natura, solo gli italiani, solo i nostri. È bello che ogni tanto questi ascoltatori dicono che bisogna aiutare solo i nostri. Una volta dicevano solo i padani, no? Adesso invece solo gli italiani, solo gli italiani. libertà. Io sono sempre più razzista, contro la Chiesa, contro i porci del governo. E io, se avessi una casa libera, anche se venisse il prefetto, piuttosto la brucio. Brucio casa mia piuttosto che sì, darla. Sì, voglio vederlo, voglio vederlo. Di Roma fuori. È una vergogna, questa non è accoglienza, questa è una schifezza, vedere tutta questa gente buttata per le strade e a spacciare droga, a fare i loro bisogni, ma questa è un'Italia questa qua. Servi di Roma fuori. La questione, le barricate di Corino di ieri, dell'altro ieri, sono state delle cose bellissime. Che personalmente sto cercando di spingere da mesi qui a Bergamo a cercare di fare. Nel momento in cui arriva mi fulma con questa gente, ma purtroppo non ci sentono. Padania bella e libera, guardava. La signora che ha chiamato prima dice: assumono le pastiglie per non rimanere incinta. No, cara signora, il kit del prefetto clandestino prevede 50 negri ai tanti, 4 donne incinta e 6 o 7 bambini. Questo è il kit per poter strappare le lacrime di quei buonisti infami luridi di centro-sinistra. Capito, David? Sì, sì, queste fine intellettuali. Vabbè, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno di essere fini intellettuali per intervenire in una radio, cioè per fare gli ascoltatori. Che cosa c'è? No, ma voglio dire, non bella, era, il kit non del clandestino era... non è male. Il kit del clandestino prevede per emozionare le persone, prevede 50 negri, 4 donne, 6 bambini, eccetera, eccetera. Donato, ah, è lui, Donato, che c'è, Donato? Non ci mancava. Pronto? Dimmi, Donato. Volevo parlare con come si chiama là, quello lì che, come si chiama, quello che si stocca sulla sedia. Oh, non mi viene in mente il nome. Non dai, mi viene in mente. Chi? David? Quello che c'era prima, come si chiama? Mughini, il bravissimo Mughini. Purtroppo l'ho andato via, vabbè. Dimmi, volevo dimmi. Completamente fare a pezzo tutte le sue ideologie, fare proprio a pezzo. Ma perché? Nonostante, che ha detto, che ha fatto? Nonostante lui nella testa abbia 1 milione di libri, io ne ho appena 10. Comunque non è questione di quello che tu hai letto, è questione di quello che tu elabori dalla lettura. Comunque io voglio dire soltanto una cosa. Dimmi solo una cosa. Le persone che dicono spariamo sulle navi, spariamo qua, ma quelli là sono le persone più innocue della terra. Mettetevi in testa una cosa, che chi vuole uccidere non lo dice mai. La sinistra non dice voglio sparare qui, voglio, perché la sinistra sta mangiando con quella gente. La sinistra criminale, il PD, quell'associazione per delinquere, perché Renzi... Dai, non esageriamo. Non esagero. Io voglio parlare con Renzi, Prima non volevo parlare col Papa. Corbito, sì, aspetta la sua telefonata, proprio un giorno come questo. Io voglio parlare con questo assassino, quello che sta rivoltando questo povero paese. Ma hai provato a parlarci? Allora, no? Hai provato? Allora quella famiglia lì di quelle donne, non so che cazzo le ha stuprate, chi le ha chiavate, perché sai che in Africa. Ma che c'entra? Quelle sono incinta, che vuol dire? Non voglio sapere chi l'ha messa incinta. Me l'ha messa incinta. L'avrà messo in giro un miserabile africano, che là purtroppo le donne valgono più o meno come una platta rossa, non c'entra un cazzo. Stanno scopando ormai da 1000 anni. Vabbè, ma che c'entra? Allora, mio nonno mi parlava che in Africa c'erano dei negri che morivano di fame. Dopo 1000 anni, i negri stanno ancora morendo di fame. Allora c'è un motivo. Se muoiono di fame, questi sono proprio dei buoni a nulla. E che non mi dicono, che la colpa ce l'hanno le multinazionali, perché le multinazionali non vanno negli stati a smembrarli, no, parlano con i dittatori o presunti tali, parlano con loro, fanno accordi, quindi andiamo a ammazzare i loro capi, andiamo ad abbatterli, altro che abbattere. Stiamo parlando di altre cose, però non ho capito, queste donne che sono state, hanno fatto bene questi abitanti di Corino? Queste persone sono soltanto persone esasperate, perché in questi ultimi 15 anni stanno vedendo il loro paese completamente trasformato nell'orrore, mentre il PD e tutta quella razza schifosa e delinquente, sono delinquenti, stanno mangiando anche sulla vita mia, la vita delle mie figlie, non la città di questa merda che è a fianco, quel piccolo Re Artù che è a fianco, quel piccolo Re Artù, io poi sarei il Lancillotto, perché io ho scopato a stanno di storia. Allora, il discorso è questo. Dobbiamo fare la sanità in questo paese non funziona. Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutte le Rai che vuoi, sono tutti questi miserabili che parlano di accoglienza. Anche quello che ha telefonato prima da Varese, mi vergogno. Che vergogna! Spagna, ma cosa vuole questo paese? Che cazzo deve ancora prendersi dentro? L'Italia sta morendo. Ci sono milioni di ragazzi italiani, voglio parlare piano, stanno morendo. Non hanno soldi in tasca, non hanno più niente. Che fai, piangi? Quando vanno da un dottore, devono mettere a posto i denti, non riescono a mettere a posto perché non hanno soldi. E allora? Ci sono più di 5.000 italiani che non hanno nemmeno la residenza. La residenza non ce l'hanno. Quel maledetto Renzi, quel figlio di puttana, no, che pensasse anche a tutti gli italiani che non hanno una residenza e devono pagarsi il medico. Ma che fai, piangi? Ecco. Questi, e noi che noi ci mettiamo a pensare i poveri che ci stanno invadendo, quelli sono dei popoli fottuti, perché allora come si chiama questo figlio di merda che è a fianco, questo ma lungo, che ha fatto questo qua, che questo qui non so quanti figli c'ha, no, non so quanti tre figli ha. E che qual è il problema? se questo miserabile avesse quattro figli ai quali non riuscirebbe nemmeno dargli da mangiare, io sono convinto che questo miserabile avrebbe qualche cosa in comune con sottoscritto, perché non può pensare che i suoi figli stiano morendo di fame mentre vede un governo che fa entrare centinaia e centinaia di islamici, perché sono tutti islamici, credetemi. Sono la maggior parte, tutti musulmani. Allora qualcuno ti domanda, qualche porco del PD dice, perché ricorda quel PD, sono tutti una massa di porci, sono schifosi. Sai cos'è strano? Che in questo reparto non si sente un rumore dietro. La cosa strana è che ogni volta che lui chiama, o chiama da una camera iperbarica, perché dietro non si sente nulla. Allora le ipotesi sono due: o i suoi parenti lo hanno chiuso dentro una stanza isolata e gli hanno lasciato un telefono apposta perché possa comunicare con l'esterno, poi, e gli hanno insonorizzato tutto, capito? Gli hanno insonorizzato la stanza, e lui può fare quello che gli pare. L'altra ipotesi è quello che nell'ospedale nel quale si trova, essendo questo non l'orario di visita, lo hanno isolato all'interno dell'ospedale di Varese in un'area riservata. Le ipotesi sono, capito? Adesso tra un po' sentirai, quando entrano quelli col camice bianco, non è che dicono scusi signor Donato. Viva l'Italia, lo fanno chiudere la telefonata, lo sanno che si calma a quei 5 minuti di decompensazione. Adesso sale, poi si va giù da solo perché è bipolare. Viva l'Italia, anche quel porco di napoletano, viva l'Italia. Napoletano, capito, perché povero napoletano, quel vecchio di merda che ancora è morto. Augura la morte anche a quello. Ormai penso che più basso di così non si possa più. Ammazzato un sacco di italiani, è un decorticato. Poi D'Alema, c'è quel figlio di puttana di Prodi, quella gente che con tutti, sì, uccisa. Che bello ambiente, che bello, ucciso con le giugulari che gli esce fuori, con le giugulari hanno firmato un trattato criminale, no, ma è andato a vedere cosa sono le sue condizioni di salute che sono. Francesco Reggio Calabria, Francesco, dimmi. Buonasera. La sentivo dare degli omertosi ai calabresi quando si parla di 'ndrangheta. Ma io non ho detto omertosi, quella che abbiamo chiamato, chiamiamo tutti. No, lei ha detto in Calabria quando si parla di 'ndrangheta chiudono il telefono. Ma sì, ho detto quando si inizia a parlare di 'ndrangheta chiudono il telefono. Non è che ho detto tutti i calabresi sono così. No, lei ha detto in Calabria. Aspetta, fermo lì che c'ho la borsa. Aspetta che ho la borsa. Aspetta. Dacci oggi la nostra zanzara quotidiana. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Allora ragazzi, mentre la protezione civile ci comunica che per il momento non ci sono né morti né feriti in questa nuova scossa di terremoto nel centro Italia, Parenzo, e di questo ovviamente siamo molto contenti. Meno male. Mentre la protezione civile ci comunica c'è un programma in televisione che, come sai, si chiama Di Martedì. Sì. Ed è emesso, ottimo, ed è prodotto dalla rete in cui lavori, che ottimo, si chiama La 7. Si chiama La 7, guidata dal cavaliere, dottore, professore, come lo potremmo chiamare? Urbano Cairo. Penso che tu diventerai anche tifoso del Torino, mi sembra che hai sempre tifato il Torino in vita tua, o no? Hai sempre tifato. Questo sì. Non posso dirlo, ma hai sempre tifato il Torino in vita tua. Non capisco niente di calcio, quindi non avrebbe senso, però il Torino però mi pare un'ottima squadra, sta facendo un'ottima stagione, Non sai nulla. Quanti punti ha? Quanti punti ha il Torino? Punti, perché è caduto qualcuno, gli è andato i punti, cosa è successo? Non ho capito. Non mi occupo di calcio io, come sai. No? Allora, di martedì è diventata una trasmissione che praticamente ci terrorizza. Cioè, provoca ti assicuro. Perché ci sono servizi di continuo su quello che succede nelle camere degli alberghi. Le lenzuola piene di sperma. È giusto che tu lo sappia. I materassi pieni di schifezze varie. Le moquette schifose. Ma lo sapevi tu prima di vedere? No, ma ho capito, ma non mi interessa. Cioè, quando vado in albergo non me ne frega nulla di sapere che probabilmente con lumi non l'hanno trovato delle macchie di sperma. Che cazzo me ne frega vuol delle macchie di sperma? Vuol dire che sono lavate male, ma non me ne frega niente. No, furbo. In questo caso, sempre volendo terrorizzarci, perché ormai la funzione è questa: tu guarda di martedì e sapere, ma oddio, devo avere paura pure andare, per esempio, in una cabina delle fototessere. Per esempio, le cabine delle fototessere, tu dici vai mai qualche volta? Sì, ogni tanto ci sarei andato, oppure vai dal tuo fotografo personale. Vado dal mio fotografo personale. Io no, io invece, che sono una persona alla fine proletaria, vado nelle macchine, quelle le macchinette. Senti. Andiamo a vedere cosa si nasconde nelle cabine per le fototessere? Andiamo. Per individuare tracce invisibili a occhio nudo è necessario usare lampade a raggi ultravioletti. Cominciamo dal basso, vediamo che ci sono un po' di tracce. Ed ecco, guarda là, anche lì c'è una colatura, vedi? Probabilmente del liquido seminale. Questa è molto grande. Dalla forma si può considerare una traccia di liquido seminale. Abbiamo perlustrato anche la tendina. Sono le tracce delle mani che probabilmente hanno toccato l'interno. Qualcuno ha usato la tendina come carta igienica? Praticamente. E neanche il soffitto si salva. E anche queste sembrano delle ditate. Ora, caro Parezza, a parte che viene sempre fuori il liquido seminale, in tutti i servizi che fanno, viene sempre fuori il liquido seminale. Come tu insegni, ormai fa parte del nostro quotidianità. No, ma va benissimo, per carità, va benissimo. Ma scusa, ma a me che cazzo me ne frega se non so dove, in una cabina delle fototessere, c'è del liquido seminale? Se poi ti siedi lì vai e fai che porcheria, ma che roba è? È già evaporato. Ma che porcheria. Ma è normale, è, perché dai, non si può scopare dentro le cose, non si può scopare dentro le cabine. Ma direi, che è doveroso. È una specie di servizio che, in assenza della legalizzazione della prostituzione, anche se poi la camorra a Napoli si è organizzata, hai visto, no? Sono dei geni comunque, ragazzi. Non c'è niente da fare, i camorristi alla fine sono dei geni. Sai che cosa hanno fatto? Hanno creato una specie di parco dell'amore con tutte delle tendine, dei piccoli box, e se prendono 20 euro per ogni consumazione, chiamiamola così, 50 euro costa la scopata, quelli se ne prendono 20, perché hanno creato questo parco dell'amore nei dintorni di Napoli, dei geni assoluti. Cioè, dove non c'è lo Stato a legalizzare la prostituzione, arriva la camorra. E io dico che, in assenza di luoghi, va bene anche trombare dentro le cabine dove si fanno le fototesse. Della camorra. No, ma d'altra parte, no, quello vabbè, chi se ne frega. Io non è che posso sapere se quello è un camorrista o no, quello che gestisce. E come no? Lì. A Caivano, magari. Do 50 euro per scopare da una mignotta e la camorra se ne prenderà 20. Chi se ne frega? E sarà mica bella, però. Ho capito, ma se lo Stato non legalizza, che devo fare? Se lo Stato non fa le case chiuse, se non fa i bordelli, vado a scopare là dentro dove almeno non mi vede nessuno, no? Comunque, ragazzi, state attenti. Nelle cabine dove si fanno le fototessere, alle stazioni, alle fermate delle metro, eccetera, eccetera, c'è del liquido seminale. Avete sentito? Dunque, quando vi sedete, guardatevi un po' intorno, eccetera. Se non me ne fregherete, fatevi le foto lo stesso. Altrimenti, che ne so, chiamate il servizio dell'AMA se vi rispondono. Ludovico Milano, vai. Ciao, dimmi. Dimmi. Ciao, Parenzo. Io sono convintissimo che è una causa possibile di che? Questi terremoti che ci sono stati oggi e anche a Mantice sia dovuto a causa dello stoccaggio del gas in profondità. Ecco, altra cazzata. Vai. Iniziamo con le cazzate. Lo stoccaggio dei gas in profondità. Benissimo. A Campo Cellino c'è praticamente un impianto dell'Edison che sta stoccando dal 1984, che ha 5 pozzi. Sì. ma anche vicino Pescara ci sono altri cioè, non ho capito, lo stoccaggio dei gas in profondità provocherebbe secondo te una specie di sommovimento sotto la terra e dunque i terremoti. Se tu pompi nel sottosuolo, lei è un professore di vulcanologia, un professore di meteorismo, no, di che cosa? Non ho capito. Io sono un inventore. Un inventore di che? Un inventore. Energie rinnovabili. Un inventore di energie rinnovabili cosa vuol dire? Ho più di 80 invenzioni sulle energie rinnovabili, risparmio energetico e mobilità. 80 invenzioni? Cioè lei è una specie di genio praticamente. No, ma tu mi conosci benissimo, ci siamo visti anche al Costo. Dove ci siamo visti? Al Costo, a un locale che si chiama Costo. Vabbè, d'accordo, va benissimo, perché ho anche una foto con te. Vabbè, ma questo non è un delitto. Non è un delitto per da raccontare tutti i miei quello che faccio. Cioè, tu sei convinto? Tu sei convinto perché forse le hai studiate queste cose qua? Non lo so, credo, immagino, no? Che i terremoti sono causati dallo stoccaggio dei gas in profondità. Questa zona è causata dal gas stoccato in profondità. E come fanno a stoccare? Ma io non lo so, ma scusami. Sono degli yacimenti esausti, no? Che vengono. Sì, però, caro Ludovico, io voglio capire se effettivamente questa roba qui ha un suo senso. Perché uno può immaginare qualsiasi cosa. Qualcuno dice anche che sono prevedibili i terremoti, no? Ti ricordi la vecchia teoria dei terremoti prevedibili? Pompi migliaia di tonnellate di gas nel sottosuolo e dalla volta si stacca una pietra, un masso. Fa una scintilla, fa una scintilla, che questo può succedere. Ma scusa, no? Ma perché se questa teoria fosse vera non viene riconosciuta e vengono impedite queste cose? No, spiegami, per quali convenienze? Perché nessuno vuole fare una cosa del genere, può dimostrare che questa cosa è la causa. E perché? Quali sono gli interessi dietro questa roba? Cioè si vogliono continuare a stoccare i gas in profondità, tu dici? Certo, perché questi prendono una quantità di soldi incredibili. Parenzo, tu ci credi a queste cose? No, ma assolutamente no. Pensi che siano una puttanata mai vista? Cioè lo stoccaggio totale. Dei gas? Invece totale. Vabbè, approfondiremo. Totale. Grazie Ludovico, ciao. Totale. Matteo, provincia di Messina, vai, proseguiamo ragazzi, proseguiamo, ancora non è finita. Matteo, vai. Matteo, su, dimmi. Ascolta, un'ora che sono. Lo so, hai ragione, dimmi. Finalmente mi è arrivata la chiamata. Ascolta, ti vorrei fare una domanda. Siccome tutte le sere vedo sul programma di merda che parli dei quattro qua, dalla vostra parte, mi senti? Dalla vostra parte, sì, anche Quinta Colonna, ma programmi bellissimi, perché? Tu tirapiedi di Del Pietro e poi... Tirapiedi di chi? C'è bisogno di un trigo. Sì, ma alza un po' la voce, sennò non si capisce, Matteo. Dico, sei talmente esperto, lo devi capire di che tirapiede, no? Di chi? Di Berlusconi, di se stesso, di... Vabbè, Matteo, allora? E allora io ti volevo dire una cosa, ma io ti faccio una domanda. Sì. Tu pensi che se c'era Berlusconi... Non si sente niente, Lores, Vicenza, nulla. Lores. Nulla. Vai, oh no. Mamma mia, Lores. Eccola Lores. Eccola. Eccola la Lores razzista. Senti, sì, razzista, Cruciani. Sono la razzista solita che spara dalla finestra. Ti avevo chiamato. Ecco. Ti avevo chiamato perché c'ho oggi, un immigrato che è passato davanti a casa e gli ho sparato come fosse un canguro. Dimmi Lores, dimmi. Ho sentito prima che parlavate di Madonna e io volevo dire che... Ecco, questo è un argomento che le si confà. Che non esiste nessun rapporto d'amore se non c'è cosa? Il pompino ecco, e la mangiata. Meglio quando si occupa di queste cose che non degli immigrati. Non esiste un rapporto d'amore se non c'è il pompino e... No, ma l'altra cosa che hai detto, se non esiste il pompino è? La magnada. Che è la magnada? A noi si dice così. Ah, l'ingoio magna. Sarebbe, l'ingoio. Sì, no, sì. Se magna, Quando lui lecca? Esatto, bravo. No, per capire, se no non si capisce. La magnada. Noi diciamo te la magna. Ma così si dice, Parenzo, la magnata? Non lo so, linguaggio di questa volgare probabilmente allora, sì. Allora... È proprio Non esiste. Non esiste, vabbè, abbiamo accertato che secondo te non esiste rapporto però, d'amore senza bambini. No, volevo io, ti avevo chiamato per... Ma qual è il motivo? Che... C'è un motivo per cui hai chiamato o no? Questo no, sì, la solitudine. Se mi la solitudine. Arrivare, te lo dico. Allora, la solitudine è l'unico motivo. Sono stata testimone di che? Nel comune di Tiene. Tiene, provincia di Vicenza. Tiene, 20.000 certo. abitanti, no? Che è successo? Allora, una signora di 45 anni, sì, disoccupata, a Tiene, va in municipio perché per fare domanda di una casa popolare, certo, non può più permettersi di pagare un affitto. Beh, allora? Eccetera. Allora, niente, non può fare richiesta, scade il 3 novembre perché non ha uno stipendio, è disoccupata. Parliamo di un comune di 24.000 abitanti. Vabbè, allora, che vuoi dire con questa cosa? È disoccupata. No, lo sporco negro di merda che arriva stanotte, ecco. Domani è in hotel, eccola, giusto? Ma beh, che giusto? Cosa sta dicendo? Una italiana nata a Tiene 45 ma che anni cosa fa c'entra? Ha pagato sempre tutto in regola, mai preso neanche una multa nell'automobile. Non può pretendere una casa popolare, una stanza, un giaciglio perché non ha reddito. Cazzo schifoso, ma l'ho detto, stato italiota di merda. Domani lo sporco negro che arriva è in hotel a 4 stelle. Schifosa, per primo, a Tiene non esiste nessun hotel a 4 stelle perché è un pisciatoio d'Italia. Per me sono, ci passo sempre da... Ma non c'è manco una stella a Tiene. Non c'è niente. Niente. Tutti. Il nulla c'è a Tiene. Il nulla. Se non 24.000 persone che si rompono i coglioni. Tutti, merda che non ma perché sei così? Una merda. Ma perché? Non ho capito perché stai impazzendo in questo modo. Non ho capito. Ma perché è allora, pazza. Imbecille. Ma hai detto che devono annegare tutti? Li hai chiamati negri sporchi di merda? Sì, sporchi negri di merda, devono annegare tutti. Vabbè, è una follia. Ma se... fornisci il numero alla procura, dai, ti prego. Fornisci il numero di questa alla procura, dai, basta, deve smettere. Si occupi della fellazio, che è l'unica roba forse della quale si può occupare, va. Ma perché? Che ha fatto? Che ha fatto? Si occupi della fellazio, merda, vai, imbecille. Ma perché li chiami Renzi napolitano? Fermo, stai tranquillo. Allora, Lores, ma perché? Ma che c'hai? È malata il cervello. Ma scusa, ma non eri veneta te? Non eri indipendentista veneta te? Sì, e allora che ti frega l'Italia? Scusa, che ti frega l'Italia? Ma che cazzo dici? È una spostata, dai, un'evidente spostata. Ma la deficiente. È una spostata. Ma perché? Ma che c'hai? Ma perché ti è partita la brocca? È una spostata. Ma perché ti è partita la brocca così? Lei è una spostata. Era partita raccontando quelle robe lì della fellazio che saprebbe fare bene. L'unica roba di cui si deve occupare è quella lì, peraltro. Lores. Lei è una signora spostata, spostata Lores, di testa. È impazzita spostata. Lores stasera, cioè, ma non stasera, in generale roba da procura. Da spostata, da camicia di forza. A domani, ciao. Cruciani, ma va cuca. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, hai ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh?